40. Quando ero bambina mi condussero ad una fiera e mi fecero salire sulle montagne russe. Appena fui seduta nella carrozzella, con le cinghie serrate intorno al corpo e il vuoto e la vertiginosa corsa davanti a me, gridai di voler scendere e tornare indietro, ma il carrello già si muoveva lentamente, scivolando sulla prima china. Io urlai, mi divincolai nelle cinghie: fermate, fermate, voglio scendere, voglio tornare indietro. Ma il carrello volava precipitosamente a salti, a sbalzi, giù per una china, su per un'altra, girando vorticoso sopra ponti e abissi, sempre più veloce, sempre più precipitoso, guadagnando velocità ed impeto nella pazza discesa. Così io m'ero avviata lentamente, quasi senza saperlo, sulla rapida, tortuosa china del delitto. A poco, spinta dalla pazzia, era cominciata la corsa, la macabra, spaventevole corsa alla perdizione. Giù allora, a rotoli, a sbalzi, rovinando nel buio, non c'era più fermata, non c'era più ritorno. Fu Kamarowski stesso a sollecitare la mia partenza da Venezia per Kiev, dove mi restavano alcune formalità da compiere prima delle imminenti nozze. Egli si offrì ad accompagnarmi, ma io non volli. Si rassegnò, dunque, bene a malincuore, a lasciarmi partire sola con Elisa e ci accompagnò alla stazione dove trovai il mio coupé, riservato da lui, già riempito di fiori. Lo ringraziai con le labbra tremanti. Dunque, dolce mia, tra 20 giorni sarai di ritorno e allora non ti lascerò più. Rideva, fermo sulla piattaforma tra molta gente che ci guardava. Io, appoggiata al finestrino, lo contemplavo, dicendo a me stessa: questa è l'ultima volta che io lo vedo. E mi pareva strano e incongruo che gli facesse delle mosse usuali e delle osservazioni comuni. Morituro, quale io lo sapevo, avrebbe dovuto avere degli atteggiamenti ieratici, dei lenti gesti solenni, delle parole memorabili. Egli invece diceva: non perdere il portamonete, ricordati della dogana, bada che attaccano il vagon ristorante a Bolzano, e non mangiar pesce che l'ultima volta ti ha fatto male. Vedrai Grani e mia madre, li abbraccerai per me. Vuoi dei giornali? E correva dietro al giornalaio, poi contava la moneta resagli da costui e discuteva per una lira che gli pareva falsa. Tornò davanti al mio sportello, mi porse i giornali e si asciugò la fronte e la banda interna del cappello. Fa caldo, disse e rise. Tutto ciò non mi pareva appropriato alla tragica situazione di cui egli era l'inconscio eroe. Cercai di dirgli qualche cosa di tenero, ma la commozione mi stringeva la gola. Sta savia, disse lui, sempre sorridendo e gittando un'occhiata ad alcuni ufficiali nello scompartimento vicino al mio. Qualcuno gridò: partenza! E il cuore cominciò a battermi follemente. Mi pareva d'essere nel carrello delle montagne russe e volevo scendere, volevo fermarmi, volevo tornare indietro. Arrivederci, Mura, buon viaggio! E Kamarowski tese la mano. Io mi sporsi più che potevo, la sbarradottone mi tratteneva e riuscii a toccargli la punta delle dita. Un convulso mi prese alla gola. Paolo, gridai. Paolo, Paolo, oh mio Dio, perdonami. Il fischio della partenza superò la mia voce, ma egli mi lesse l'angoscia sul viso. Che cosa hai detto? E camminò accanto al treno che già era in moto. Io ripetei il mio grido: perdonami! E tendevo le braccia fuori del finestrino. Egli scosse la testa, non aveva compreso. Il treno palpitava e correva. Correva anche lui gridando: come? Cosa hai detto? Ma il treno andava sempre più presto ed egli dovette fermarsi. Rimase ritto, solitario, all'estremità della piattaforma, guardando con espressione smarrita e interrogante il treno che mi portava via. Così, sempre così lo vedo nei miei pensieri, attonito, stupito, interrogante. E così, certo, così, stupito, attonito, senza comprendere, egli avrà guardato in faccia al tradimento e alla morte quando la mano di un amico lo colpì. Il carrello precipita nella folle corsa all'abisso. Siamo quasi al fondo. A Kiev mi incontra Naumov ed io subito gli singhiozzo sul cuore la mia disperazione. Paolo Kamarowski deve morire. Non gli dico perché, non gli spiego nulla, ma ripeto quelle due parole: deve morire. Finché pare che non vi siano altre parole al mondo, finché l'universo intero echeggia di quelle due parole, deve morire. E poiché vedo Naumov, che si ritrae da me, pallido e inorridito, lo scaccio gridandogli: vile! Ch'io non ti veda mai più. Ma perché? Perché? Singhiozzava Naumov, prono, baciandomi il lembo delle vesti. Che cosa ti ha fatto quel pover'uomo? Ah, invero, che cosa mi ha fatto quel pover'uomo? Allora, folle e febbrile, cerco di spiegare a Naumov, di spiegargli tutto. Gli parlo di Tioca e del mio giuramento. Egli mi ascolta esterrefatto, non comprendendo. Ma tu deliri? Tu sei pazza? Che fissazione è questa? Calmati, ragiona, come puoi immaginare una simile stravaganza? Come puoi credere che sia così iniquo Dio? Allora torno a mentire, narro di insulti, oltraggi, patiti, narro di violenze e di brutalità che Kamarowski mi ha fatto subire, e narrando mi sembra che tutto sia vero, mi esalto alle mie proprie parole, piango, tremo, mi dibatto in convulsioni e Naumov, sempre più pallido, sempre più smarrito, non sa che cosa pensare. Ed io ogni momento, 10 volte al giorno, mando telegrammi a Prilukov. Berta non vuole. Prilukov non so perché chiamava Naumov Berta. E poi Berta lo farà, e poi Berta non lo farà, e ancora non far male a Berta, e consigliami, aiutami, impazzisco. Che cosa devo fare in questa orrenda cosa? E Prilukov mi telegrafa. Penso io. Difatti. Pensa a mandarmi anche lui 10 telegrammi al giorno. Sono firmati Kamarowski e contengono una sequela di insulti, di ingiurie, di beffe all'indirizzo mio e di Naumov. E Naumov li legge e finisce ad avere anch'egli la fissazione e la vertigine del delitto. Se mai lo ritrovo sulla mia strada, lo uccido. Ma io sono posseduta da 1000 demoni, incalzata da 1000 furie. Una sera, nel chiaro crepuscolo degli ultimi giorni d'agosto, con un velo nero sul capo, fuggo dall'affollato albergo. Ricordo che passando nel vestibolo vidi due soavi ragazze inglesi ritte accanto al pianoforte che cantavano un duetto. Mignonne, voici l'avril, le soleil revient d'exil, tous les nids sont en querelle. Sedute ad ascoltarle stavano blandi e sorridenti i genitori. Lui, un bel vecchio dalla barba fluente, la moglie mite e dolce, donna coi capelli argentei sotto la cuffietta di pizzo. Ricordo che passando frettolosa e pallida forse, forse col volto angosciato, davanti a quelle due placide persone, la vecchia signora dolcemente mi guardò e mi sorrise. Oh, quel sorriso materno, ingenuo e pietoso, come mi strinse il cuore. Per un istante ebbi la folle idea di fermarmi, di cadere a ginocchi davanti a quella sconosciuta, di aggrapparmi a lei e al vecchio, gridando: Salvatemi! Aiutatemi, le furie mi incalzano, sono una disgraziata, domani sarò una delinquente, non per mia colpa, non per mia volontà, tenetemi con voi, salvatemi. Ma i demoni alle mie spalle risero forte e le furie mi sferzarono ed ecco anche Naumov che, accortosi della mia fuga, scendeva le scale per seguirmi. Allora attraversai rapida il vestibolo e uscii. L'air est pur, le ciel léger, et partout l'on voit neiger. De plume de tourtelle. 41. Correvo per le vie senza parlare, senza sapere dove andavo. Naumov seguiva, chiamandomi tratto tratto per nome, desolato e stupito, giù per la lunga Sofienskaya e a destra per la Rudolfskaya e fuori dalla porta Teodosiana e avanti per la deserta e polverosa via dei sepolcri, mi trovai davanti al cimitero ove dorme mia madre. Gettando un rublo al guardiano, entro e mi inoltro per i silenziosi viali. Dove vai? Sussurra Naumov. Perché? Perché veniamo qui? Ma io proseguo, rapida, per i viali già pieni d'ombra di salici e cipressi, fra le biancheggianti croci, fra i tumuli infiorati, ed eccomi alla tomba di mia madre. Mi inginocchio e bacio la grande croce di marmo che le pesa sulla delicata fronte. La penso lì, così sola, così triste, abbandonata alla pioggia, al vento, al buio delle lunghe notti spaventose, e le dico piano: Parlami, mamma, dimmi che cosa devo fare. Tu sai del giuramento e del piccolo Tioca e di tutte le cose terribili che sono nella mia vita. Deve morire quell'uomo. Mia madre non risponde. Dimmelo, ti prego, dimmelo. Deve morire. Ma mia madre non aveva voce. Allora il vento della sera passò sui leggerissimi fiori, gigli e campanule che coprivano la sua tomba e tutti mossero le teste dicendo sì, sì, sì. Vedi, vedi, dissi piano a Naumov che mi guardava con occhi stralunati. Andiamo. E lo trascinai via. Imbruniva, corsi tra le sepolture per viottoli stretti finché in un deserto angolo trovai una tomba negletta segnata da un sasso grigio con un nome e una data. Guardando quel tumulo di terra dove due vecchie corone appassite dicevano oblio, grandi onde di desolazione passavano sopra di me, come tutto era triste. La vita, la morte, l'amore, il desiderio, la speranza, tutto triste, tutto vuoto, tutto vano. «Chi è?» disse Naumov, chinandosi in avanti per leggere il nome. Indi pronunciò lentamente «Vladimiro Stahl». Qualche cosa si mosse. Forse non erano che le foglie secche delle corone appassite, ma io ebbi paura, paura di vedere d'un tratto Stahl muoversi e rizzarsi a sedere, coperto di terriccio, per rispondere al suo nome. Naumov levò su di me due occhi di sogno e di spavento. «Oh!» sussurrò rabbrividendo. Io ti vedo circondata di morti. Forse gli parlava delle tombe che in quel crepuscolo mi circondavano di un biancheggiante semicerchio, ma a me pareva che gli vedesse ritti dietro di me i miei morti, mia madre, Stahl, Bozevski e il piccolo Pietro, e gettai un urlo. Perché urli? Perché? Ansò Naumov aggrappandosi alla mia mano e guardandosi intorno anch'egli con aria di paura. Additando la tomba innanzi a noi, chiese a bassa voce: Chi è costui? L'hai amato? Nei suoi occhi brillava qualche cosa di fosco e di folle. Vi era spavento, lussuria e frenesia nello sguardo che gli fissava su me. Io non risposi: L'hai amato? L'hai amato dunque? Egli si serrava a me con la bocca aperta, anelante. Giura che ucciderai, giura! Bisbigliai, scossa da un furore isterico. Giura, giura! Egli si abbatté sopra di me, figgendo la sua bocca sulla mia. Giuro, giuro, giuro! Mi rantolò nella gola, stritolandomi le braccia, ruggendo come una belva. Terribile femmina che tu sei! Giuro, giuro, giuro! Fra le cose orrende, incredibili, sonnambulesche che segnano come chiazze di sangue su una notturna via la mia vita tenebrosa, quell'allacciamento frenetico tra le tombe, nel crepuscolare cimitero, s'erge alto come uno spettro d'ombra e d'onta nella mia memoria. La notte scendeva. Tenendoci per mano, e le nostre mani erano gelide e sudate, fuggivamo per viali e viottoli, girando, voltando, tornando indietro, correndo, inciampando nelle ferriate che dividevano le fosse. Incapaci di pensare, di fermarci, di ragionare, ci precipitammo in una folle e macabra corsa. Ad ogni svolto vedevamo biancheggiare nuove file di lapidi, di croci, di statue, interminabili file di morti sdraiati coi piedi rivolti a noi. Dovunque si girava, dovunque si correva, erano ancora quelle file di morti, coi piedi stesi verso di noi, e annottava. Allora, credendo di scorgere lontano un lume, la loggia del guardiano, per abbreviare la via, lasciammo i tortuosi sentieri e traversammo correndo, senza più tenerci per mano, i campi ondulanti di tumuli e di fosse, su e giù sopra quegli avelli rotondi, su e giù per quel mare dalle brevi ondi convesse, incespicando nelle corone, calpestando e spezzando fiori e fronde, corremmo ansando nel buio, pensando che riversi e supini sotto i nostri passi giacevano i cadaveri di gente strana e di gente che avevamo conosciuto, e correvamo, rovesciando lampadette, frantumando ritratti, rovinando e calpestando i doni ultimi dei poveri trapassati. Battendo i denti, grondante di sudore, con le vesti lacere e scarpe pesanti di fango, mi fermai. Dov'era Naumov? Quando l'avevo smarrito? Dietro quale tomba era caduto o si nascondeva? Ero sola? No. Peggio. Naumov era nascosto nel buio intorno a me. Di dove sarebbe balzato fuori a spaventarmi? Allora strillai, strillai come avevo sentito strillare una pazza chiusa in una cella al manicomio. E quella pazza era mia zia, ora sepolta qui. Strillai che mi pareva di spezzarmi la gola. Strillai, strillai in quel campo di morti silenziosi, impassibili, supini. Coi piedi rivolti a me. 42. Un soffio d'aria mattutina mi sfiora il viso. È Elisa che apre le imposte. Io mi desto come da una sincope e le membra mi dolgono. Elisa! Ella accorre e si china su me con viso ansioso. Che ora è? L'ora solita, signora, le 8. Ed Elisa mi pone accanto al letto il vassoio del tè. Allora, a poco la mia memoria si desta. Ancora avvolta come in una nube, ancora con gli occhi bendati, corre in qua e in là come una fanciulla che giochi a mosca cieca. Elisa, dov'è Naumov? Ma è partito, signora. È partito. Una lunga pausa. Dov'è andato? Elisa mi guarda e dà gli occhi paurosi e fedeli come quelli d'un cane che il padrone percuote. A Venezia, dice sommesso. Io balzo a sedere sul letto, a Venezia. Quando? Ma ieri, signora, ella lo sa, lo ha pure salutato, gli ha dato la sua crocetta d'oro, non ricorda più. E nella voce di Elisa tremano il rimprovero e il dolore. La mia memoria smette di giocare a mosca cieca, non corre più in qua e in là, si slaccia le bende, s'avvicina, mi guarda, si ferma. Sì, è vero. Ho salutato Naumov, gli ho dato la mia crocetta d'oro. Sì, Naumov è partito per Venezia. Elisa, Elisa, Elisa, tendo le mani come chi naufraga, come chi affonda nel buio. Elisa piange. Io guardo le strane facce che fa Elisa quando piange. Sono smorfie comiche e pietose. I miei pensieri tornano a giocare a mosca cieca e poi, d'un tratto, si fermano e mi guardano con facce chiare e terribili. Elisa, bisogna fermare Naumov. Non deve arrivare a Venezia, non deve, Elisa, non deve. Fermalo, fermalo, fermalo. È troppo tardi, signora. Sì, è troppo tardi. A quest'ora il treno che porta Naumov ha già oltrepassato Varsavia, corre verso Brünn e corre e corre nel sole vespertino, poi nel crepuscolo, poi nel buio ed entra all'alba, rombando e sbuffando nella stazione di Vienna. E il giorno si attarda finché è notte, e la notte si affretta finché è giorno. Elisa, che ora è? Le 8, signora. E che tempo fa? Fa bello, signora. No, no, non è quello che voglio domandare. È un'altra cosa. Aspetta, e mi passo la mano sulla fronte. Elisa tace, mansueta e paziente. Voglio domandare che giorno è? È il 3 settembre, signora. È il 3 settembre. Elisa, ho paura. Telegrafa, telegrafa Naumov, non lasciar che continui il viaggio. In nome del cielo, fallo tornare indietro. È impossibile, signora. Sì, è impossibile. A quest'ora il treno corre da Bolzano a Verona, da Verona a Venezia e si ferma. Nicola Naumov si sporge dal finestrino e con le mani ancora innocenti apre lo sportello. Rapido esce dalla stazione e davanti a sé, azzurra, ondulante e indolente, vede, con gli occhi ancora puri, Venezia, la città degli amori e dei sogni. E il giorno si affonda nella notte e la notte si slancia nel giorno. Elisa, Elisa, dove sei? Che ora è? È presto, signora, sono le 6, dice Elisa alzandosi dalla poltrona ai piedi del letto dove deve aver passato tutta la notte. Hai sentito qualche cosa? No, signora. Io ho sentito chiamare. Elisa tace e gira per la stanza. Io mi adiro e grido. Perché non parli? Perché non rispondi? Sì, signora, dice Elisa. Elisa. Sì, signora. Che giorno è? Il 4 settembre. Elisa. Sì, signora. Elisa, telegrafa a Venezia. È inutile, signora. Sì, è inutile. A quest'ora Nicola Naumov si slancia fuori dall'Hotel Danieli, sulla riva degli Schiavoni, e traversa la piazza vuota e le calli deserte e chiama un gondoliere, Campo Santa Maria del Giglio. E nella dolce aria mattutina, la gondola voga verso il morituro dormente. Quali sogni gli avrà mandato per l'ultima volta l'angelo del riposo? Forse la tenera visione del piccolo Grania sarà venuto a consolarlo, mentre silenziosa e inesorabile la morte, chiusa nella gondola nera, scivolava verso di lui sui meandri dei lucidi canali. Santa Maria del Giglio! Santa Maria del Giglio! Balza la morte dalla gondola, attraversa il campo deserto ed entra nella villa. Sale rapida ai gradini, batte a una porta, si inoltra e chiude l'uscio dietro di sé. Il giorno s'apre e fiammeggia. A me sembra che nel mio cervello si sia scavato un grande vuoto. Il mio cervello non è più che un buco e questo buco si chiama attesa. A poco il senso di aspettante vacuità si distende, si allarga. Io sono in un mondo vuoto, in un universo vuoto che non palpita, che non respira. Attende. In me non c'è più nulla. Intorno a me più nulla. La vita è sospesa nell'aspettazione. Il giorno declina ed avvizzisce, ed ecco nel vuoto illimitato piomba ad un tratto un nome, il nome mio. È Paolo Kamarowski, fermo sull'orlo del sepolcro, che mi chiama. Mi chiama per 3 giorni e per 3 notti. Io non odo nulla all'infuori di quella voce di moribondo che mi chiama. Mi chiama con una voce immensa e terribile, che riempie il mondo, riempie l'universo. Mi pare che tutto taccia e si fermi per far posto a quella voce che urla il mio nome, Maria Tarnovskaja! Io mi chiudo nella mia stanza per non sentire, chiudo le porte, le finestre, le imposte, le tende, ma quel grido, Maria Tarnovskaja! Si ode ancora. Mi nascondo nel letto, copro le orecchie con le lenzuola, con le coltri, con i guanciali, Maria! Maria! Maria Tarnovskaja! Corro nella strada, tutti sembrano ascoltare quel grido. Maria! Maria! Maria Tarnovskaja! E tutta la gente mi guarda, si ferma e aggiunge il suo grido al grido lontano. Maria Tarnovskaja! Maria Tarnovskaja! E i ragazzi che per la strada vendono i giornali vengono vicino a me ed un tratto mi strillano nelle orecchie. Maria Tarnovskaja! Io fugo con gli occhi fuori nell'orbita. Inseguita da quel morente a cui da una vasta ferita nel ventre fuggono gli intestini. Egli mi insegue ululante. Maria, Maria, Maria Tarnovskaja. Ma ad un tratto, silenzio. Io mi guardo d'intorno, spaurita. Più nessuno mi insegue, più nessuno mi chiama. Tutto tace. Dunque è morto? È morto, morto? No. Guarisce. 43. Quando io odo questa parola, cado per terra con grida di gioia. Guarisce! Mio Dio, grazie! Dunque è stato tutto un sogno, guarisce! Dunque la sorte si è fermata, dunque io posso tornare indietro. Guarisce! Mio Dio, grazie! Grazie, grazie! Etioca! E il giuramento! Oh, che importa, che importa! Io spalanco le finestre, vedo il cielo e grido al cielo, che importa! Oh Dio misericordioso e paziente che mi hai salvata, che nel tragico gioco hai fermato il carrello e mi hai lasciata tornare indietro, risalire la china, rivedere il sole. Se vuoi il mio bambino, prendilo e sia grazie a te, mitemente io lo cedo e verrò con lui, spariremo dalla vita, Tioca ed io. Saremo come le belle statue bianche nei camposanti, dove le giovani madri col bambino in braccio spiccano il volo. Tengono il viso rivolto al cielo e un riso estatico illumina i due volti di marmo. Come mai non ho pensato prima a questa dolce e semplice cosa, lasciar la vita con Tioca tra le braccia, ricoverarci sani e salvi nella morte. Il carrello si è fermato. Paolo Kamarowski guarisce. Grazie, mio Dio. Grazie. Grazie.